mi consenta di citarla. L'incapacità di riconoscere la propria colpa è la forma più pericolosa di ottundimento psichico che si riesca a immaginare, perché è la sola capace di impedire all'uomo di migliorare. Si parla molto dei sensi di colpa che il cristianesimo instilla negli uomini e con cui li vuole tenere sotto pressione. Naturalmente abusi dei sensi di colpa non si possono escludere, ma è molto più grave lo spegnersi della capacità di percepire la colpa, perché indurisce interiormente l'uomo in maniera patologica. Pensiamo al passo successivo di un processo di questo genere. Coincide con quanto avvenne in epoca nazista. Si credeva di poter anche assassinare, come diceva Himmler, conservando la propria onorabilità. E ciò ha provocato una devastazione nella coscienza umana e lo stravolgimento di tutta la persona. La capacità di percepire la colpa è sopportabile e si sviluppa solo se esiste un rimedio alla colpa stessa. E questo a sua volta dipende dalla possibilità dell'assoluzione. La psicoterapia può far molto nell'individuare e correggere distorsioni nella struttura psichica delle persone, ma non può superare la colpa. Allora, oltrepassa i propri limiti ed è per questo finisce per fallire. Solo il sacramento può davvero superare la colpa con l'autorità che gli viene da Dio. Dobbiamo comunque ammettere che nella nostra epoca, così impregnata di individualismo, risulta all'uomo estremamente difficile varcare la soglia della confessione personale. Ma laddove siamo guidati dallo spirito della fede, possiamo impararlo da capo. Innanzitutto perché non ci viene chiesto di confessare le nostre colpe davanti ad altri uomini, ma dinanzi a Dio, e perché questo sforzo viene suggellato dal perdono e forse anche da indicazioni pratiche che ci aiutano a superare le conseguenze della colpa.